Siamo in collegamento telefonico con Ludovica di Zalib e dei ragazzi di Via della Gatta per parlare di un incontro dal titolo Giovani e Teatri in un nuovo spazio in quel di Trastevere. Intanto Ludovica, ben ritrovata. Ciao Federico, buongiorno. Ci parli un po' intanto di questo gruppo di giovani che, se non sbaglio, se ricordo bene, è nato all'interno di una libreria purtroppo ormai chiusa. Giustissimo, noi siamo un gruppo di ragazzi dai 15 ai 30 anni, tutti frequentatori abituali di questa libreria del centro di Roma che purtroppo ha dovuto chiudere a novembre perché non reggeva più comunque come dire, la competizione, no? Del mercato online, della vendita dei libri, insomma. E per noi è stata anche una casa questa libreria e quindi abbiamo cercato di salvarla, stiamo provando a salvarla ancora, a riaprire e nel frattempo cerchiamo di offrire un'alternativa culturale valida ai nostri coetanei che hanno sempre più bisogno di spazi di cultura, libreria in primis, ma anche dei teatri, anche di quegli spazi che la nostra città ha, che le città hanno e non vengono magari utilizzati al loro meglio, ecco. Sì. Ludovica, avete cominciato un percorso di incontri pubblici, questo se non sbaglio è il terzo appuntamento. Giusto, sono 4 appuntamenti in totale, questo è il terzo. I primi sono stati su Giovani e Libro, appunto, il secondo Giovani e Femminismo, domani abbiamo l'incontro con i teatri e invece la prossima settimana quello con gli spazi abbandonati e la rigenerazione urbana. Ok, ci parli di questo incontro Giovani e Teatri, come è strutturato? Assolutamente sì, l'incontro avrà luogo domani alle 6 negli spazi del WIGIL a Trastevere, largo a Shanghi 5, sono degli spazi della regione che la regione Lazio ha rivalutato per renderli degli spazi culturali e giovani. E sostanzialmente noi domani facciamo una chiacchierata con tre grandi teatri romani che purtroppo hanno o stanno vivendo l'incertezza di poter continuare a esistere, che sono il Teatro Valle, il Teatro Verdinona e il Teatro Sbarologgio. E con i rappresentanti di queste tre realtà, insieme a Monio Vadia, Edoardo Ferrario e le Coliche, Fabrizio e Claudio Colica, parleremo insomma, del rapporto tra giovani e teatro, come mai sembra che sempre più i ragazzi non siano abituati all'intrattenimento, allo spettacolo dal vivo e insomma ci chiediamo anche se appunto manchi un'educazione in questo senso oppure se le varie amministrazioni non sappiano valutarli al meglio, insomma ci facciamo delle domande in merito a questa arte antica e in questi tempi moderni del 2.0 della comunicazione in pillole visive anche. E visto che i nostri ospiti sono da una parte un mostro sacro del teatro e dall'altra invece dei giovani ragazzi attori teatranti che però vivono anche molto sulla rete. Sì. Senti, una curiosità, come allora il progetto nel complesso si chiama No, Roma non fa la stupida, è divisa per volumi se non sbaglio. Volevo sapere, ecco, queste quattro aree tematiche che avete individuato, come mai? Allora, il progetto, come ricordavi tu, in realtà gode e vive in un'altra sua parte, che è una mostra artistica, che è sempre negli spazi del WIGIL, che si chiama Roma non fa la stupida, e raccoglie 10 realtà romane culturali in pericolo. Tra queste, appunto, i teatri, la Casa Internazionale delle Donne, diverse librerie indipendenti e degli spazi o dei festival che comunque si promuovono di rigenerare la nostra città. E darle nuove funzioni, nuovi spazi, nuove metodologie di approccio, nuove economie. E quindi semplicemente questi quattro gruppi si sono delineati da soli, vedendo le realtà con cui ci trovavamo a parlare. E siccome sono tutti temi che noi sentiamo importanti e vicini al mondo giovane, anche se spesso si dice il contrario, no? Sì. E abbiamo pensato che era interessante dare ai nostri coetanei la possibilità di confrontarsi con questi temi. E la speranza è anche quella che invece magari i grandi si incuriosiscano di questi ragazzi che vogliono parlare, vogliono mettere in nuova luce il teatro, gli spazi, il femminismo, le librerie, la cultura e che così insomma, vengano a ascoltarci e vengano a parlare con noi. Ludovica, in chiusura, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più e poi ricordiamo l'appuntamento di domani. Va bene, allora ci trovate su Facebook o su Instagram come Ragazzi di Via della Gatta e l'appuntamento di domani è dalle 18, anzi anche un po' prima se volete venire a vedere la mostra, negli spazi del Wigil, largo a Shanghi 5 a Trastevere. Un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, ciao Ciao. Federico.